Vabbè, comunque c'è una bella cosa, eh. Anche a me sarebbe piaciuto avere una casa così, per i cavoli miei, fuori, puoi fare quello che vuoi, metti l'antenna che vuoi, facci stare qui in un condominio che non puoi fare nulla, dai, avanti Natali. E neanche la fettina ti puoi arrostire, perché sennò ti denunciano. Ehi, insomma, dai, via. No, vabbè, giù con un pezzo di giardino, posso cucinare lì, eh. Ah, eh. Ah, io quando ero in campagna, io mi cucinavo tutto a rucchio, eh. Poi a volte quelli di giù cucinano, no? Io cosa faccio? C'è una canna da pesca piccolina, con un piombo leggero, un'ancoretta, la scendo giù e porto su una fettina, una bistecca, un'orata, dai, quello che ci attacca. Io gli ho atterrato su, ho già atterrato in mazzarda, metto lì il barbecue e faccio l'arrosto, per cui non c'è problema. E nessuno mi può dire niente, perché sono a cielo aperto praticamente, per cui va bene così. Ma quando non dai fastidio agli altri, insomma, è logico, c'è uno vicino che c'è la roba stesa, non è che mi metto a fare il fuoco, così, a pulsionargli la roba. Infatti, tu pensa che io tutti i giorni sento il profumo dei dolci, qui vicino a me, a 50 metri da me, anche meno di 50 metri, c'è la pasticceria banale, no? Sì che loro iniziano presto a lavorare, e la mattina appena che io apro la finestra subito sento l'odore di dolci, proprio, che poi tra l'altro io sono anche goloso, per cui mi piace, e mi piace anche sentire quell'odore lì. Che prima era il lavoro di Natalino, ex pasticciere, avanti di Natalino. Già lo so, che c'è quello lì vicino a te, è logico che intendo, Rubiago. Scusate? Sì, però io non me lamento, mi Natalino, devo dire che intanto è una comodità, perché quando devo comprare le paste vado lì, un attimo, oppure le torte, lo ordino. Per dire, anche 10 minuti prima di mangiarlo la torta, vado nel ritiro, per dire, se a 50 metri da dove abito io, se puoi immaginare, pasticceria banale, che poi c'è anche la succursale di in corso Trinità, di fronte praticamente zona Santa Maria, dai. No, in corso Vico, in corso Trinità è dove sto io. Ah già, corso Vico, sì, io confondo sempre corso Vico con corso Trinità. Vabbè, di fronte a X, come si chiama, a Luni, dai, da quando c'era il bar a Luni prima. Quando vuoi sapere da Buro, Ennio Frau, vicino, ti ricordi Ennio Frau, quello delle biciclette? Sì. Da lì. Ehi, ho detto sì, non mi ha sentito giù. Ah, no, pensavo che era sparita la modulazione. Sì, ho sentito, sì. Sì, infatti c'era Ennio Frau anche lì, di vicino. Vabbè, dai, comunque. Sono tante cose, bella bella, e anche lì è cambiato un po' tutto adesso con la scusa che c'è Corte Santa Maria lì, è diventata una zona più trafficata rispetto a prima cosa mia. Vabbè, c'era, dove c'era Corte Santa Maria, io ho conosciuto un rifornitore anche di benzina, e poi c'era anche, cosa c'era? Un autonoleggio di macchine c'è stato negli anni passati, io sto parlando di 50 anni fa, però come minimo, per cui me lo ricordo benissimo, perché andavo a prendere la macchina in noleggio prima, quando avevo Foglio Rosa, insieme ad un amico che lui aveva già la patente, prendevamo la macchina a noleggio, prendevamo per tutto il giorno, la domenica, ci divertivamo. Avanti, Natalia. Ehi, capa, io devo fare cosa qua? Rimango in QRX che già la sala devo fare giù. Va bene, d'accordo Natalia, ci sentiamo allora, ciao ciao, alla prossima. Oh ragazzi, ci sentiamo dopo? Ok, ci sentiamo dopo allora, ciao ciao, buona serata, grazie per la chiacchierata. Ho avuto un problema col 730, stiamo risolvendo, dai, sono al telefono, dai, grazie, scusate. Ma figurati, fra, ciao ciao. Thank you. 10? Hola, attenzione 10? C'è qualcuno su 10? Hola, attenzione canale 10, avanti, se c'è qualcuno. Hola, attenzione 10. Attento 10, c'è qualcuno? Hola. Hola. Luca, tu sei? Come Robert? A me conosco il segnale. E beh, cosa c'è combinato? Sì, mi sto cambiando. Sto provando a prendermi l'autobus. Autobus? Ma per andare a casa tua? Allora. Devo essere lontano. A piedi non si può andare. Da settimana di Pisa me la sta a piedi a Lomonti. Ah, non è la Teroce. No, settimana di Pisa. E poi anche se essendo anche la Teroce è lontano. A salire a piedi. C'ho lavoramento, che me ne frega. Prendo lo San Camillo e mi porta direttamente vicino a casa. Ah, vabbè, sto scherzando. No, ma dico, non è lontano, lontano, no? Quanto sarà? 2 chilometri? Non lo so, mi sa di sì. Se vai a Monanza già andava. No, ma tanto adesso non c'è caldo, a quest'ora già si fa bene. Certo, se vai a Punta di Mezzodì alle 2:30, il caldo già lo sei. Vabbè, comunque. Andiamo in porta lì, me ne sono via Alessandro Manzoni, faccio due passi per arrivare. Via Alessandro Manzoni, dove è Alessandro Manzoni? Dove sono le scuole? Aspetta un attimo, ci deve essere qualcosa che non va, solo qui che impazzisce. Che cosa? Quando c'è, già sei a posto, lo smetto, ma molte volte manco sale. Ma la radio qua comunque sta andando tutto bene, ma c'è solo qualche cosettina di lì. Tu già c'era altro, vai. Ma ho preso un panino, un capriccio, no capriccio, un cheeseburger. Da chi? A Roberto, in via Napoli? No, sono andato dalla Spiga, sono buoni, vabbè, quelli che fa coso, Roberto, sono buoni, come Renato, la Matesigosa. Però il capriccio, il cheeseburger, forse questo è un po' meglio, la carne è un po' meglio. La Spiga, in via, a via dei Mille, via Montegrappa, fa veramente buone. Io ho mangiato l'umacone a ripieno, li ha fatti i padri di Marina, questo di formaggio morbido, poi ho mangiato frutta, un pezzo di torta che ho fatto ieri. Ebbene, Lumacco, sei andato, come stava Luca? Sì, stamattina, ho trovato un po' di lumaccone, lumacco grosso, l'ho mangiata per noi, dai. Ma in che zona sei andato? E lì sono a coso, vicino a Bancali. Ecco, c'è un'amica mia, mi sono spaventato, c'è la campagna tipo prato comunale, dai, zona di Canica, più avanti di Canica. Tu devi vedere le lumache che c'erano di giorno, non giornata piovosa, la settimana scorsa che non ha piovuto. Ma queste lumache, pieno. Ho detto, chissà che ando più, cosa sarà qua? Se non ci va, rimangono, E poi se la gente va, non è giusto. Capito? È così. Magari ci va qualcuno, ci va oggi, ci va domani, poi non ce n'è. Bisogna aspettare di nuovo al prossimo anno, quando escono di nuovo, capito? No vabbè, lei c'ha un terreno grande, c'ha un ettaro di terreno, in tutta la sua campagna c'era questa roba. E ha detto, figurati se vai dove ci sono proprio le lumache, su a Montebianchino, dove la parte alta, non so se sei andata dalla strada di Usulo, che lì ci sono tutti pietre e cose, lì è sempre pieno di giù. Ma figurati cosa c'era con l'acqua che ha fatto ieri. Ci sono dentro casa io. Ma tu ne mangi robe, sì? Allora io lumacone non mi piacciono, i lumacone non mi piacciono, anche se la gente ne rascema, arrivo sino alle lumache grandi e le montrette, però fate come dico io, facciamo entrare a Claudio, avanti Claudio. Ehi, sono entrato a salutarvi, ho guardato la sorpetta, io ho entrato a salutare il buco, ho detto io c'è già dentro casa, dicevo qui al tuffo, mi ho regalato anche una rettina a mio fratello, io proprio c'è già dentro casa, tra il viale di casa, il giardino mio e tutto il muro di recinzione ne fai un coso, un secchio di quelli della tinta. Già me l'ha detto l'altra volta la traccia, anche Lumacone mi ha detto. Sì, Lumacone è proprio il posto. È che qua è proprietà privata e quindi non vengono, ma nella strada già ci vanno. E via da tecla, io mi sto pensando che sto andando, tra poco vado via. Questa è zona blu. È zona. Non so se te l'ho detto dove sono io, però questa è zona proprio romantica Lumacone. Lo sai dove ci sono i lumaconi? C'era una lampadura che c'era un amico che lavorava all'ippodromo, mi ha detto a quintali, deve essere il coso dei cavalli che li attirano, pieno di lumaconi e di montrette. Sì, anche montrette ci sono qua, però io ne ho visto poche, ma ci può entrare, perché è proprietà privata, quindi ce lo facciamo noi, soprattutto il mio vicino di casa, che li fa anche per me a volte, ma ne sono già stufo di mangiarlo, davvero. Va bene, va bene. Ma pure, non diventa troppo grande, troppo, quando massegheggi, è una cosa non mi piace, dai. Anche se la gente dice che sono meglio lumacune delle lumache grandi, io preferisco più le lumache grandi. Le lumachine non v'è nulla, dai, prima ne mangiavi un bel, ma te ne basta la gana, con la lumaca un po', anche se devo dire, sono da molto che non le mangio lumache. Allora, Roberto, devi mangiare lumaconi mezzani, se mangi quelli giganti, no, sono d'accordo con te, infatti, quelli giganti se la mangiati la mia 25, ma sono mangiati quelli più piccoli, quelli sono buoni, teneri, manco come se stai mangiando lumache grosse. E poi a me piace un sacco fatti in verde, aglio, fatemi il peperoncino, il pane grattugiato, la sua morte. Buonasera a tutti, dai, ci sentiamo dopo, io voglio mangiare, ciao. Vabbè, dai, ne approfitto io che vi saluto e vado, dai, ci sentiamo dopo, ciao, riprendi il clap. Ciao, ci sentiamo, e anche io 5 minuti con Roberto, poi me ne parlo, ciao Anto, anche a te, no, anche io sono d'accordo, quelli grandi, mia moglie li fa ripieni, mentre quelli mezzani, così, aglio, prezzemolo e peperoncino, e il pane grattugiato, quelle lumache, al sugo, con le patate, eccetera. KK, e fra un po' mi è tempo di lumachine, Roberto. Anche se devo dire non è più, adesso si stanno ripopolando, ma fino a 2-3 anni fa non ve ne erano i biumi. Io mi ricordo una decina di anni fa scendevi a Platamona dal Guadore, nel pezzettino di Ottava, li vedevi tutti attaccati, addirittura attraversavano la strada, certe volte se pioveva, era pieno. Ne hanno fatto razzia e sono cadute, proprio non ce n'erano più. Addirittura Ussi avevano vietato la raccolta nel pezzo di Ussi e di Usini. Me lo ricordo, un anno sì, era successo così. No, vabbè, ma qua ci sono molte piante di finocchietti, capito? C'è molto verde, quindi quando piove è tremendo. Ce n'è un bel. Ce n'è parecchio. Ascolta, vabbè, come sta andando di radio? Va bene? Che è un bel forte circa, segnale 9.35 quasi, radio è fortissima, il più forte di loro. Ok, no, sto usando il Saletta perché il Tano più 3 ieri mi ha lasciato a piedi, si è scaricata tutta la batteria, è iniziata a fischiare, fare. Adesso domani vabbè, tanto vuoi scendere a Sassari presto, alle 9 devo essere dal commercialista per le 7.30. Sono già in ritardo, devo fare altre commissioni, quindi ne approfitto e compro anche la batteria, però questo non è male, questo va molto bene al microfono. Sì, sì, già un bel. Poi un tipo, va, non posso fare il nome, una persona, una carissima persona tra l'altro, un ingegnere, quello che ti avevo accennato, che tra l'altro abitava vicino a Tecla, questo qua, e radioamatore lo stesso, già ti conosce a te. Ma a Carbonati non qua non può abitare perché sono due bifamiliari e ci conosciamo tutte e quattro. A Carbonati, infatti mi ha detto che lui era in alto di lì, nel grattacielo, se non si affianca a te, al decimo piano lui. Ah, quello dove c'è l'Erico, ah sì, quello è 13 piani, 12 più la mansarda 13, mentre il mio invece era 9 più la mansarda 10. No, non quello là, non quello vicino a te, cacchio, vicino a te un altro palazzo c'è di 10 piani. Ah, sì, la Borgarasci, sì. Perché ha visto le antenne, ha fatto manca anche lui, dove aveva, siccome lui è appassionato di radio, un ingegnere elettronico tra l'altro questo, c'ha tutte radio vecchie, lui tutta roba grossa, siccome era telegrafista di bordo, lui nel coso, anche professore a scuola di telecomunicazioni insegnava, e c'ha tutti gli apparati di roba vecchia, valvolari eccetera, e poi c'era l'attrazione in campagna, ha detto non posso mettere antenne perché ha calcolato il coso dei fulmini, è impossibile mettere antenne di lì, troppo, la statistica dice che è troppo alta, dice le ha fatto danni enormi, per cui ha fatto la tabella di calcolo delle probabilità, ha detto non fa mettere corso, qua dovresti fare un lavoro troppo dispendioso, preferisco non fare niente, e ha messo delle filari e buche. Ma è lui che, ascolta, ma non si chiama Maurizio, no? Non si chiama? Maurizio? No, si chiama Antonello, cognome non te lo posso dire. Antonello, no, io come ingegnere che insegnava telecomunicazione aeronautico, io radioamatore conoscevo l'ingegnere Marisio, professor Marisio, bravo ingegnere, in telecomunicazione era molto bravo. so, ma mi sembra che abitava comunque al chilometro di quelle più familiari che c'erano, non so, vabbè, se mi conosci o se non mi dici il cognome, poi magari quando ci vediamo me lo dici. Non è un ragazzo, è una persona grande, adesso insegna all'università, a mio genero li sta insegnando, siccome si sta laureando in corso di sicurezza industriale, mi sembra una cosa del genere, lui li fa questi professori di cose, infatti mi ha detto mio genero, mi ha detto, ho visto il mio professore, stava parlando, sono andato a casa sua, anche lui è appassionato di radio, radio amatore, ho detto, ti sei già, mi ha detto il nominativo, però non me lo ricordo, che c'è zero, però no, c'era da tantissimi anni la patente, da quando era in coso, in marina dovrebbe essere, perché ha fatto, lavorava in queste navi pure, boh. Sì, vabbè, ti avrò dato, l'avrò preso in marina la patente, non so, se non mi dici il cognome, non so, vabbè, a prescindere, poi vabbè, io sono fuori adesso al mondo, quindi no, se non mi dici nome e cognome, magari non lo conosco neanche. E allora, vabbè, che si dice, sto a posto? Passa domani, vai, ci facciamo una chiacchierata a quattro. Sì, sono incasinato, penso facciamo un laboratorio oggi, abbiamo finito il baby crew di là, dove hai detto tu all'angolo, grande, minchia, un bel grande, adesso prima era piccolino, adesso un bel grande, ha finito oggi, infatti sta asciugando perché l'ha fatta a tavelle, adesso domani viene a rifinirla fuori e poi devo verniciare tutto il muro interno, vabbè, sono qua. Preso da mille cose, non farvi tutto il muro, verniciare il muro bianco interno, tutto il muretto, sai, già lo conosci tu, tutto della recinzione. E poi devo fare pavimentare il cavello. Ma il muro esterno ti devi verniciare? Sì, quello della recinzione, però lo faccio solo interno, capito? In modo che sia tutto risaltato con la facciata. Perché se no con la pompa te li fai in fretta, ma bisogna farlo in due. No, c'è la pompa, vabbè, anche non ve la rimane. Ho già comprato la tinta, un bisogno da 25 kg, capito, lo va anche diluito, quindi diventeranno 30-40 kg di tinta bianca, bella, di quelle al quarto per esterno, bella bianca, una pennella sciamorra, e mi metto, a metro, già me lo faccio, sì. Già è grande, però... Poi per la parete del cavello mi ho preso un rullo col bastone allungabile e me lo faccio al rullo col bastone. Se deve usare il rullo però deve essere bella liscia la parete, là. Sì, già è liscia. Metto una carta fine, no? L'ha fatta bene, già va bene. Non quella dove avevo montato l'antenna, quella è rustica, quella si è passata così a pennellesse e basta l'altra, capito? L'ho vista ieri, sono andato a Castel Sardo e l'ho già vista l'antennato, bella alta, complimenti. Ahi, te l'ho messa, già va bene, dai. Non volevo fare molti lavori, l'ho messa lì sul verso muretto, però ho aggiunto quegli elementi che ti ho detto, 2 più 2, 4 metri più 2, se non parlo, sono 6 metri, dai, già va bene. Ho messo 3 tiranti sotto, va bene, no, sul tetto non mi metto, vabbè. Sul tetto non metto perché c'è il copritetto in legno e cazzo se faccio danno è un casino, capito? Ho preferito metterla così esterna, già va bene. Ma per il fulmine, vedi lì sei tutto aperto. Sì, infatti, no, noi siamo messi a terra qua, allucinante. Poi quando ho visto faccio vedere, c'è il pozzetto, me l'hai ispezionato l'altra volta al Tugno, bello, c'è una treccia di massa bella tosta. E niente, ma infatti io non metto altre antenne, lascio solo questa, non molto alta, giusto per fare due chiacchiere, boh, vabbè, capito? Tanto si è più passato, doveva passare Stefano a trovarmi domenica, però ha visto il tempo brutto, non ci è venuto. Già ci passo, dai. A questo amico, questo dicendo io, gli ha rotto lo strumento, come si chiama, non regolatore di rete, ma misuratore di rete, 30.000 euro di strumento e più un altro strumento, come si chiama, quello che ti misura l'intensità sonora, non mi viene la parola, quello lì altri 8.000 euro di strumento, gli ha fatto 38.000, poi gli ha sfasciato un po' e tutto qua, si ci ha fatto un danno e non ha scaricato direttamente proprio sull'antenna, ha scaricato vicino a lui, dice gli ha distrutto tutto, ha preso anche il principio di incendio a casa, sono venuti i vigili del fuoco, dice, a spegnere da sopra con l'acqua, ha fatto un danno allucinante, infatti dice no, antenne non le posso mettere di lì perché bisogna fare la gabbia di Faraday, ha detto sarebbe una cosa troppo dispendiosa, non ne va la candela. Sì, ma infatti le conviene, io l'ho messa a terra, il tubo è a terra, proprio, hai capito? È nel muretto di un metro, bussano 1,20 m. qualificata lì, a terra però, è a terra, no, proprio per non crearmi problemi, perché se dovesse capitare si ferma lì, capito, si ferma lì, se la metti sul tetto, cazzo, poi fa danno forte, invece lì è praticamente nel muretto che dà dietro la campagna, capito, quindi che danno può fare, e poi è bassa, no? Non ne metto alta, no? Già vabbè. L'importante è che vi senta, giusto così a fare due chiacchiere, ma voi sentite a me, voi così non tutti. Ah, voglio a te, quasi 9.35, c'è, cioè, cosa vuoi di più? E tu c'è la stessa cosa, siamo arrivati tutti bene, tutti oltre 9.10, chi 9.20, Gianni mi sono spaventato, Gianni c'ha il tuo segnale, Gianni quando attacca, con lineare attaccato, cazzo è 9.40, come te? Addirittura. Sì, Gianni doppio, fortissimo arriva, cazzo, bella radio. Bello potente, forse da casa non me ne accorgevo, anche Antonello Alessio, quando attacca arriva molto bene, non satura niente, mentre invece prima eravamo troppo vicini, quindi non notavo le differenze, capito? Ehi, è Rugani, adattando si fa la classe. Esce al conto suo, adesso la mattina si alza, le apre la porta, va, fa i bisogni, chiaramente io la raccolgo perché nel mio giardino non ci deve rimanere niente, ci ho comprato le bustine, e poi le butto nella mondetta, capito? Intanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì passa il camioncino, cioè, mi hanno dato tutto, i bidoni, tutto. No, non si è abituato per Pietro, e allora, oramai, sempre bucato pure a me dall'erba, un cinghiale è diventato. Dimmi qua, ma l'ho messo la cancella? Se lo lasci aperto sì, però io lo teniamo sempre chiuso. No, che ve la sogani di zino, quello lo stesso, quella specie, cosa mare a mano, quello grande che c'è all'inizio è vicino, è nella prima villetta che c'è all'ingresso del viale. Capito? Io sono più giù. No, se lo lasci aperto già esci, ma lui già lo sa che non devi uscire, sono aspetto a te. No, c'è chi sa farla, l'altro giorno un ragazzo che giocava con noi, lui c'ha due bassotti, di lì punti, un tipo, un pezzo di merda che lo conosco pure, gli è uscito il pitbull, uno è riuscito a scappare, l'altro l'ha guantato e l'ha ammazzato. Pitbull c'ha la mano, il trono di qui, a parte il fatto che c'hanno la recinzione, sono dentro il giardino, anche qui due ne ha due. Quindi non escono, qui c'è tutta la rete, non escono, ma Filippo non la lasciano a parte, è un cane abbastanza tranquillo, poi gioca con questi del mio vicino, che sono due pisciai, due rompicoglioni, che non ti dico, però gioca, capito, va abbastanza d'accordo. Ma se viene gente, come ti comporti? No, tranquillo, tranquillo. Ehi, ha fatto una rostita con tutte le ex colleghe di mia figlia, no? Con 7-8 ragazze, con i ragazzi, eravamo un mare di gente. E lui era tranquillo, ogni tanto andava a fiaggare, a fascia, però ha fatto entrare a tutti, buonissimo. Però ha cambiato carattere, forse perché a casa era troppo chiuso, roba, hai capito? Quindi non c'è pericolo se fa venire gente che musicheggia? No, cos'è musica? Sta lì, sta in mezzo ai piedi, a volte lo mando anche via, allora vai sicuro che è mezzo all'erba. No, ha cambiato completamente il carattere, ti ripeto, forse perché era troppo in appartamento, troppo chiuso, Meglio così, no, perché prima dice a casa tua non si poteva entrare, si era lungato. Vedi, a casa non faceva entrare Roberto, mentre invece qua è tranquillo. Come vede cancello aprire, perché vabbè, se c'è il campanello, c'è tutto, quindi... come suoni, se è dentro lui si alza e va alla porta a vedere chi è. Se invece fuori dal giardino, se suoni, va al cancello, però ci sono io e quindi non fa niente assolutamente. Meglio così, perché rimani senza qualche persona con qualche bambino piccolo, magari sia un attimo distratto, meglio così. No, sono bambino piccolo, che rispetto le ossa, non ho mai fatto male a nessuno, il mio cane. A casa è che ti si attaccava le scarpe, capito? Ti mossicava le scarpe. L'unico che non rompeva le palle era Massimiliano quando veniva, perché lui lo prendeva per il muso, lo giocava, lo faceva. Gli altri invece, capito, lo temevano e quindi lui mossicava le scarpe, ma non che mossicano. E io. Vediamo se c'è qualcuno nel frattempo su 10 avanti che vuole entrare. Chi vuole entrare? Ora di cena, Roberto, sono già alle 8:30, che ore sono? Le 8:20 più o meno. E io ho cenato ancora, Daria è fuori a cena. La sua collega l'ha invitata a vedersi la finale dell'Isola dei Famosi, Cattanova l'ha già in campo. Dai, cosa hai già fatto? Mamma mia, a me non piacciono questi programmi. Dimmi una cosa, hai ben ripreso se il lavoro di tua figlia? Alla grande. Venerdì, no, sabato ho chiuso. E ero andato a casa grado 1:30. Meglio così, anche se domenica mattina io sono andato in Piazza d'Italia, c'era una pioggerellina quasi impercettibile, c'era da essere il mercatino dell'antiquariato, ma non ve la nessuno, vuota, Piazza d'Italia vuota, faccio andato a bocca aperta, anche in bar pochissima gente, la settimana prima era pieno, pieno, pieno. Vabbè, se il tempo è brutto la gente non esce, se ne sta a casa, capito? Prendono come me, c'ho tutto, io già non mi manca nulla, c'ho due frighi, uno al cavello, dentro casa, su tutte le bibite, tutto quello che mi serve, e gli aperitivi me lo porto a casa, lo usando a prendere acqua fredda. Se è bella giornata mi fa piacere uscire e prendere un aperitivo con gli amici, capito? Sì, già lo so. Ah no, già va bene. Piano piano speriamo bene di questa maledetta storia del Covid che ha arruinato troppa gente. Adesso vediamo. Vabbè Robby, dai, se ti ripeto, intanto domani mattina sono a Sassari presto, perché c'ho un po' di commissione da fare, devo portare tutta la documentazione alle 7:30, devo fare un po' di cose. Poi devo passare ai cinesi, devo prendere vecchia quella che ho, la pinza per il baby cook, per girare la carne, alcune altre cosette, e quindi già passo, ok? Ok, dai, ci sentiamo domani, dai, io tengo acceso, se nel frattempo entra qualcuno sono in ascolto, dai, ciao ciao, a presto, ciao, Robè. Attenzione 10, avanti. Oh ciao, tu vabbè. Oi, ciao, vabbè. Oh Yami, mi ha già fatto appena la doccia. Ebbene, allora, come ti anda? Scusi, niente di nuovo, dai, ho acceso, stavo facendo anche altre cose, ho messo un attimino sul 10, c'era poco fa Claudio, un attimino Luca e poi sono rimasto qua in ascolto. Già ho sentito, già appena sono arrivato. Quando ti arriva Claudio? Quasi 9:20. Via. Come sei uscito ieri qualcosa? Dai, come sono dimenticato di farti vedere le fotografie della stazione mia ieri, cacchio, era, te l'avevo fatta vedere. Vabbè, dai, già ci sarà occasione, Robè, non c'è problema. Sono uscito così, sono uscito. E allora, Conaldo, lo conosci quello senza mano, quello mi convince? Di vista. Quello sull'elettronica, c'ha le palle quadrate, elettronica ed elettricità, è veramente bravo. Poverino, però. Cosa ha avuto quello lì? No, è andato così. E chi non va a capo? Se avesse avuto testa sarebbe stato, non dico milionario, ma quasi. Perché era di buona famiglia, l'hanno adottato, il padre stava veramente bene come economia, poi si è mangiato tutto, vabbè. Ognuno la testa sua, cioè, però nel lavoro quando si mette a fare un cranio, mi sembra. Capo, è un peccato questo ragazzo sia così, è un peccato, capo. Poteva fare tanti soldi. Si è mangiato tutto e si è venduto tutto, appartamenti, locali, eccetera, eccetera, vabbè. Purtroppo è come i giocatori, ci sono quei giocatori fortissimi di talento, però non vanno in gabbo e non vanno da nessuna parte. Ne trovi uno meno bravo, tipo Gattuso, per fare un esempio, che non era nessuno, però cazzo, dava il cuore, lottava come un animale e ha vinto il campionato del mondo. Beh, certo. Queste persone, io ne conosco una di persona così stesso. Ma poi è finita ad andare alla Caritas, ci aveva tanti soldi, ma tantemi, un appartamento di punti, gatta, che ti perdevi dentro quella casa, tutte cose, se le ha fatte mangiare da una macca, da una fuori di testa, se l'ha fatte mangiare, che era anche mezzo gemoccia burro, mezzo tossica, cioè ci ha fatto mangiare tutti, perché lui era un buonaccione, era, purtroppo chi ha i pane non ha i denti, e c'è gente che vorrebbe stare bene, no, non può stare bene, perché io un cavolo aver messo una cosa del genere, lo so, purtroppo ci sono delle persone persone poco intelligenti, però sono opportuniste, riescono a interpretarsi bene, e non sono riuscito altre persone che sono molto brave e capaci, però in affuticolo così, alla giornata, quello che riesce si prendono, e potrebbero fare cose molto importanti, visto che hanno le capacità di farlo. Ma appunto, cavolo, ma io dico, ma perché questa gente non... Così che unisci a un altro Gabimacuro, ma te se c'è Gabimacuro, cioè che ha inventato non so che cosa, cioè ha fatto un brevetto, una persona intelligentissima, solo che la testa ce l'ha come ce l'ha, non va da nessuna parte, non va, purtroppo è così. Cioè invece c'è gente che avrebbe voluto il meglio e non ce l'ha nella vita, fate immaginarci. Questo ti posso garantire, lui ha fatto la scuola ed era più bravo di tutti in assoluto, infatti i professori, vieni con me, vieni a lavorare alla scuola di elettronica, e gente senza far nomi che sta lavorando, che erano suoi compagni di scuola, gli fa 10-0, ma 10-0, infatti io ho parlato con altre persone, ho detto, questo sì che ne sa un bel, ma tu lo devi vedere con quella mano, si lega nel maglio, lo stagno, tu devi prendere saldature, lavori di precisione, ti metti le mani in testa, è venuto a me in officina, mi ha sistemato l'impianto elettrico del campo e delle cose, dei lavori molto, niente di importante per lui, giocattoli, però ha fatto dei lavori, se tu vedi delle cose allucinanti lavorando di buono, rimane in campo, dici ma come cacchio fa questo? E poi è tutto di graziato, male, però è una persona valida. No, guarda, se vuoi lavorare è un altro, è che non gliene ha fatti nulla, se ne besa cando una gana, casi sempre giocando con questi giochi, questi giochi online e cose del genere, tra ore intere con questa acqua, prima aveva la maniera del gioco di altre cose e si è mangiato tutto. Ma caredo è che non gli funziona proprio un gabbo, cioè gli funziona su altre cose, se aveva avuto appena c'è un gabbo, guai, sarebbe stato un genio. No, lo so, ti vuoi, non sto scherzando, non puoi vantarlo, nel campo suo elettronica e elettrotecnica è un cranio, poi lo devi vedere in parte meccanica, lavorando su cose meccaniche, ricostruzioni, non parliamo di vetture, roba meccanica, per dire, quando ci sono registratori, dove ci sono meccanismi, tutte cose, è un mostro. Poi facendo modifiche, ma aveva sistemato una volta un ecoscandaglio a me, che voleva buttato via, ha posto mano sotto, me l'ha modificato, l'ha ricostruito, non parliamo poi di apparecchiature hi-fi e cose del genere, mamma mia, solo che rimanca la sabata dello Zalbindo, la gestione delle cose, e va. Stamattina mi parlando di giochi, sono salito, c'era un'amica mia che gli hanno buttato la macchina al monte, c'è quel bar su al monte, lo conosci? Antonio mi pare che si già. La parte alta, cacchio, sono entrato, però un ragazzo con la moglie, ma abbastanza giovane, secondo me ci avrà avuto 30 anni di più, più grande con le macchinette una mattina appresso, e lei vicino a lui, perché sono così, hanno 100 euro e si rimuono in queste macchinette, ma vai, piglia la bizzina d'oia, piglia. C'è un conto, uno ci mette 1 euro, 2 euro e molla. Poi con chi si dina, con chi si 50 euro, prendi la benzina d'olio e ti la butti in giro. Cosa c'è la parte di dina? Oggi dove vogliamo andare? In tale posto. Andiamo in tale posto. O a trovare un parente, cosa? Oppure come faccio io? Cioè, fra un pezzo all'altro mese andiamo intorno da un'altra parte, andiamo. A me la puttana sai a me delle macchinette, degli yoghi. Ah, ma la cosa bella è che c'aveva anche un bambino piccolo, ci avrà avuto 4 anni questo bambino. Ma ha fatto una bella, ho visto una situazione di merda. Cioè lui giocando con le macchinette, la moglie vicino a lui con questo bambino piccolino. Ma sicuramente erano abitué di questo bar, perché c'era la padrona, vieni al bambino, vieni che ti faccio dare la pasta, vieni che ti do la pasta. No, non gliene dire adesso, che sennò poi non so cosa, non mangiava dopo. ma la mattina stiamo parlando alle 10 del mattino, mica, che non per dire la sera. Poi la casa sono passato in un ciclo vicino a Sassari Vecchio, di lì mi ha fatto proprio schifo, di vedere delle ragazze fuori, un ciclo malichissimo, brutto, a tutto buio, schifoso, con tutta la gente fura, non ti dico dove perché non si dice, queste ragazze fuori sedute con bambini di 3-4 anni in mezzo a rimasci, sì, cosa può imparare un bambino di 3-4 anni, 5 anni in mezzo alla gentaglia, spiegamelo. Oh, ma carità, loro stanno lì, qualcuno fa pure qualcosa. Se fatene così mi ridirà anche per Trento, me l'hanno raccontato di tutti me, capito? Tutti i più. Fate in chi vi ha già panichisso che vedete che va di là. E che una se te lo porta a pure, ti fate qualche cosa c'è bisogno di là, compreso. Sì, sicuramente, ma cacchio, in mezzo a un bambinetto di 4-5 anni, in mezzo alla gentaglia, poi questo locale brutto, tutto brutto a vedersi, no? Finché mi dice un ciclo bello, carino, ordinato, cacchio, ma di quei proprio zilliri, quelli brutti, tutto buioso, con una palatina in legno per non far vedere la gente che c'è dentro, di quelle cose è compensato. Mamma mia, infatti ho detto, ma come fa una donna, non una, c'era più di una donna, 3 o 4, era, con questi bambinetti di lì giocando all'ingresso, lo busardi, fumendi, e i bambinetti in mezzo a strada. E ti tarragona, so. Te l'ho detto, vanno così, si fanno i soldini così. Alcune, non parlo di tutte, alcune di quelle fanno qualche lavoretto, fanno. non è paura, no, perché io so di gente di lì che sa. Fatemi che cose. Ma io dico, i servizi sociali dovrebbero stare un po' più attenti, quando tu c'è un bambino, se la mamma è mezzo dussica o mezzo zoccola, dovrebbe stare un po' attento, poi dicono che sono bambini delinquenti, cose eccetera eccetera. A topi fai in pelle suona. Sì, Lu, in effetti sì. Che la sono arrivata adesso, va. Ciao Lu. Andiamo. È un casino, non era come 20 anni fa, 30 anni fa. Adesso è un casino veramente, stai attento. Veramente, guarda, questi ragazzini di oggi sono fuori di capo. Si devono pugnalare e ti pugnano, poi cosa li fanno? Non li fanno niente. Di tutti per la pugnalata, sono uno che conosco io. Ho una pugnalata, lo sto buttando fuori. Se la via pigliato beh, al fianco mi via cosa, la discoteca che c'è via Carlo Felice, adesso non c'è più. Ed è fuori questo ragazzo. Certo, mica li tengono dentro. Basta vedere a Brusca, tanti anni ci ha fatto, ha ammazzato 200 persone. Sono parole, veramente. Ci vuole una punizione severa. In Italia la giustizia fa ridere. A Corona, che sarà un pezzente, quello che lui gli hanno dato 14 anni perché ha toccato le persone e non doveva toccare, magistrati, politici, eccetera. Brusca, che ha ammazzato 200 persone e un bambino, gli hanno dato 25 anni già scontati. Poi, che sto dicendo, è una vergogna, la giustizia italiana fa schifo. Adesso voglio vedere come va a finire a quei due di Sorso che stavano pescando, pesca subacquea in acque francesi di Parco, che ne conosco più di uno, di persone che l'hanno fatto e sono fuggiti. Adesso vogliono l'estradizione, ma ti rendi conto? Cioè a Cesare Battisti siamo stati 20 anni per farlo rientrare, 20 anni, 30 anni, adesso per questi due che stavano facendo pesca subacquea ne soffrendono la cosa. E io sono sicuro che l'Italia glieli danno. No, ma che? Non valiamo niente, non contiamo niente. E così quei pescatori in Libia, 4 gagarioli sono presi e li hanno portati dentro, li hanno trattati peggio degli animali. Quelli pescatori in acque internazionali, però secondo i libici sono acque loro, siccome le acque internazionali sono a 15 miglia, e oltre le 15 miglia, allora a 34 miglia, e secondo la Libia devono stare a 60 miglia dalle acque loro. Fate le bare. Cacca, li hanno presi, tenuti un anno, 21 anni dentro in Libia. Vai e tocca un francese, vengono e ti bombardano subito gli americani. Gli italiani sembrano ridicoli, o qui i marò di coso in India. Abbiamo fatto ridere il mondo. Per carità, e chi da mezzo scema che l'hanno tenuta in ostaggio, da poi va via Lungoso, quella raccontata la cosa più clamorosa. Va via, come ti dice già, ma che sono cose si buono in capo le arabe. Cioè, si è convertita con la legge, si è convertita, ma che schifo, ma vai. Al Vulcano. Ehi, che malazzurti è? Ti ricordi quella là? Mi ha fatto schifo, mi ha fatto. Il Burka si chiama, così roba, il Burka. No, il Burka è coso, è quello che ti chiude completamente. Non mi ricordo, non mi ricordo, l'altro giorno lo stavo leggendo. Il Burka è quello che ti chiude tutta la faccia completo. E quelli che è proprio un vero nudo. Ah, ho capito, capito. Sì, vabbè. Più o meno così, dai. Più o meno così. Sono le 8:30. Sì, no, ma di lì tanto Randy poi ha pagato i servizi segreti italiani, non so quanti milioni di euro hanno pagato, ma la cosa più vergognosa è Guida Guata, Carola Racchetti, come si chiama, ma quella che aveva speronato, oh, che è entrata con forza nell'acqua dentro il porto, non ve lo ricordate, a quella l'avrei schiacciata in terra, era di Brumuru, Ubremio, la nera che sa zoccola, che anche poi fallo in Francia, una cosa del genere, o negli Stati Uniti che ti bombardano. È vero, vabbè, proprio qua facciamo ridere veramente. Anche hanno paura a quello, ma se non erro quello che ha ammazzato 280 persone aveva fatto anche l'attentato a Borsellino. Certo, a cosa? Falcone Borsellino, è stato lui, ha messo una tonnellata di tritolo e ha disintegrato, lui la scorta. Ma la cosa più brutta è quello che ha ammazzato fisicamente lui con le proprie mani quel bambino e ce l'ha sotto nell'acido. Se tu leggi la confessione di Zighitto è peggio di un mostro, neanche nel Medioevo si faccia una cosa del genere. Gli ha messo le ginocchia, ha buttato in terra con una cinghia, l'ha stretto il collo, gli ha messo le ginocchia sul collo, dice questo bambino, l'hanno trovato, l'ha raccontato lui, dice dallo spavento dopo quando l'ho preso. Per sciogliere nell'acido, l'hanno spogliato ed era tutto cagato e pisciato. L'hanno messo dentro questa tamburana a carico di acido, l'hanno lasciato girare, cucinare, sciogliere. Poi si sono accorti che non c'era rimasto un pezzo di piede, allora hanno preso un pezzo di legno per girare, per scioglierlo. Che schifo di persone! Tu dimmi, come cacchio fai a lasciare fuori una persona del genere? Io non riesco a capire. Ma perché non ammazzano questo delinquente di merda? Il perdono! Ma che cazzo di perdono? Ma scusa, non la frase, ma che perdono voi, brutto, mamiaca, guarda, non ho parole, non ho, delinquente schifoso. Ha fatto tante di quelle cattiverie, una cosa di un killer, lo paghi, ma lui lo faceva proprio per divertimento, ha ammazzato tanta di quella gente, per scopo di coso, di dimostrare che lui era più forte, proprio con sadismo. Guarda, quelli sono quelli riconosciuti, quelli 180, bisogna vedere cosa ha combinato Burro. Altro. A poi tutta la gente che avrà fatto pestare, meno male, nel senso sparare alle gambe, tipo il paralitico, tutte quelle persone lì, e ce ne saranno altrettanto, una cosa da vergogna, ma ce ne sono tanti di questi qua, di questi delinquenti collaboratori, la cosa brutta è che dobbiamo mantenerlo noi, gli danno una nuova identità e lo dobbiamo mantenere noi, cosa costa tenere una scorta 24 ore su 24 su quest'uomo e più devi dare una casa, da mangiare, la pensione e tutto, cosa roba è gratis. Ma scusa, costava pochissimo, ma non spendevano neanche tutti questi soldi, una badda, boh, finito, cioè cosa costa una cartuccia? €1,50, da voi che costa? Tutto finito lì, cioè, da me non avevo dato a mangiare né niente, perché una persona schifosa, di merda. Quando sento queste cose mi salta un gabacca a capo, vai a fare un bambino queste cose, oh brutta merda, poverino, chissà com'è morto, non oso neanche a pensare qua, schifoso di merda. Monopattino elettrico, esplode in ascensore e morto ragazzo di 20 anni. Vedi? Continente, non so dove però. Vediamo un po' se me lo apre, aspetta. Non mi dà errore. Cioè, con le batterie al litio, lo sai quanto sono pericolose con le batterie al litio? Allora, a parte il pericolo, se prendono fuoco ci vogliono giorni e giorni per spegnerle. Cioè, mio cognato e Vigilio Poco hanno fatto il corso di spegnimento, sì, c'è una cosa allucinante, le macchine elettriche, se prendono fuoco sembra che siano spente e stanno giorni e giorni prendendo, vogliono portarti dentro dei posti chiusi, senza aria, dice tutta una precauzione allucinata. Tu hai visto uno di questi del telefonino, una batteria, prova a prendere una di quelle batterie, Luca, e falli, non farlo, non si deve fare. È comunque qualche spuntone da lontano e gli dà un colpettino, cosa succede quando esce il coso, il gas da dentro, una cosa allucinante, a temperature di migliaia di gradi. Ah, me lo ci dice, io le cambio con le batterie, ma sai che poi mi è successo, era già gonfia questa batteria, la stavo sollevando perché c'era il biadesivo sotto, cazzo mi prende fuoco il telefono, mi sono anche bruciato la mano, però il telefono gliel'ho salvato, cioè la batteria ha preso fuoco. Sì, ma tu non le hai viste esplodere, io ho visto un video, hanno preso una pressa con una specie di punzone, l'hanno messo sotto questa pressa e hanno schiacciato. Tu devi vedere cosa ha combinato questa cosa, una bomba, una cosa, sembra da quando ti scoppia un estintore, cioè presente una cosa, una batteria di niente, mi piccolissima. Sì, sì, lo so, tu queste batterie a litio qua, fai un buco, qualsiasi buco, con un ago, quello che vuoi, e prende fuoco. Non farlo mai, che è pericolo di esplosione, mio Luca. Esce un gas incandescente ad altissima pressione, è pericolosissimo. Allora, stabilo, sai quanta gente è morta con i telefonini vicino al letto, che c'era il caricabatterie acceso, ha scaldato troppo ed è copiato ed è muso. Ho visto le immagini delle persone, tipo quando li suoni alla pompa da 2 metri, così, tutta la faccia di su. Io già lo so, Rob, cioè, va. Ci sono in mezzo, non lo so, ma ho fatto capire, a me è successo 2 volte addirittura. Una signora, infatti, doveva trovare, fosse così, la batteria era un po' gonfia e la dovevo cambiare, ma ha preso fuoco il telefono in mano. Sollevando con un coso, un attrezzo micidiale, guarda. E vabbè, purtroppo, devono fare delle batterie meno pericolose. E purtroppo tutti vogliamo la durata e l'ingombro ridotto, cioè per il momento il litio è l'unica soluzione. Adesso c'è il grafene, stanno utilizzando questo sistema nuovo, però è ancora sperimentale, quello ha ancora una resa migliore, però è meno pericoloso rispetto a questo. E perché le macchine? Tu ne hai idea cosa? Che c'è una bomba sotto, queste macchine ibride, in officina quando vengono, a parte di fare il corso, perché se no non ti permettono di toccare, devi staccare, c'è tutta una procedura per bloccare la corrente, ci sono migliaia di volte. Una cosa pericolosissima. È vero che l'hanno inventato, comunque dicono che sono più dannose queste macchinette, queste macchine a batteria, queste vabbè elettriche come si può chiamare, che una macchina a benzina o diesel, cioè meno più inquinante, ecco. Scusa, sto monopolizzando tu. Allora, il discorso, le ibride hanno un sistema di recupero di energia, diciamo, finisce di lì, non devi caricarla la macchina, per cui però il motore, il movimento delle ruote in certe situazioni è tipo una dinamo, ti dà la cosa. Quelle totalmente elettriche, quelle sono le ibride che hanno motore a scoppio e più il motore elettrico a recupero di energia. Quelle totalmente elettriche, quello è il problema. Prima di tutto, per caricarla ci vogliono una marea di ore, ci vuole una corrente altissima. Nel senso, non è tanto i 220 o la 380, anche con la 380 li puoi caricare. Il problema è che devi avere una corrente che in casa non ce l'hai per caricarla in tempi brevi, se no ci vogliono 10-12 ore per avere la carica completa. Per cui stanno facendo gli impianti di ricarica, per dire anziché a 3500 watt come ce l'hai a casa, con 25 kW, 300 kW, addirittura ci sono anche 300 kW, e tu puoi produrre 300 kW per caricare una macchina, anziché in 12 ore la carichi in mezz'ora o in tre quarti d'ora. Cosa consumi di energia il generatore che produce quella? Alla fine non conviene più, fino a quando non inventano, già ci sono già le batterie con rese superiori e tempi di ricarica più brevi. Ah, ho capito. Come si chiama? Il cugino della mia compagna, la Golf, la benzina e più c'ha l'ibrido. Sì, anche mio genero, ce l'ha sempre lui dalla madre, la macchina, la Toyota, però ti posso dire, è un'invenzione commerciale, basta, non ha nessun significato, perché la macchina costa di media il 30% in più, primo motivo. Consumo, siamo lì, per dire, ti può fare un paio di chilometri in più con un litro, la funziona solo sino a 30 km orari, in manovra, cose del genere. È anche pericoloso perché quando stai andando a elettrico in manovra non senti il motore, e se non stai attento, c'è qualcuno che non sente la macchina, lo schiacci, perché un po' di gente non se ne... Io sono assolutamente contrario sia all'elettrico, almeno l'elettrico di oggi, e il futuro è l'idrogeno ad acqua, anche se per il momento è ancora un po' pericoloso, però con quello non ha nessun problema delle rese ottimali e ed è la cosa migliore. Fino a quando non fanno le batterie di capacità più grossa, di tempi di ricarica più brevi, per cui non fa, e sono solo debuttati. La gente è così, la moda adesso dell'ibrido, ma non serve a nulla. Certo. Riprendi Anto. Cappa, è un po' particolare questa cosa qua. Poi anche c'hanno, chi c'ha della rinnovita, dai, mamma mia quanto è fea. A tutte, ormai le hanno fatte tutte, diciamo, la prima che ha iniziato, non adesso, non in tempo recente, ai tempi passati, è stata la Fiat, la prima macchina messa in commercio a livello di vettura completamente elettrica, solo erano batterie che bisognava una tonnellata, non ne vale, è stata un'Alfa 33, la prima vettura di grande produzione, parliamo di grande produzione, prototipo che è stata fatta al mondo. Poi sono venute tutte le altre, la Toyota e la Nissan sono all'avanguardia attualmente sul coso, anche se c'è la Tesla che fa solo elettrico, che è sempre la numero uno. Sì, comunque la Fiat negli anni passati, adesso vabbè, un po', negli anni passati era l'avanguardia, amico, mia azienda. Allora, la Fiat motoristicamente non ha niente da invidiare a nessuno, c'ha una marea di brevetti che ha dato a tutti, dal Common Rail l'ha inventato la Fiat, la BS l'ha inventato la Fiat, poi l'ha passata la Bosch, eccetera, eccetera, ma il problema è che adesso si sta unendo con questi cacchio di altri gruppi, per cui la ricerca diminuisce, perché stanno cercando di fare profitti, per cui se prima volevano inventare qualcosa di nuovo, tolgono i soldi e pigliano di là, loro preferiscono avere più soldi e ridurre la ricerca, ma la Fiat, il gruppo Fiat parliamo, le macchine italiane avevano dei brevetti mondiali che hanno copiato tutto il mondo, poi non arriviamo alla Ferrari, sono uguali, però la Fiat ha due grossi brevetti, la BS e il Common Rail, l'elettrica Common Rail, tutte le macchine del mondo diesel è stato distribuito dalla Bosch, l'ha ceduto alla Bosch perché non poteva farlo da solo, c'era troppa domanda, e tutti i marchi di qualunque cosa utilizzano il brevetto Common Rail Fiat. Sì, ha inventato il motore Fiat che ha avuto successo, poi ha inventato questo Common Rail, ha inventato anche altri tipi di motori, il multijet, ne ha inventato un poco di cose, tutti i brevetti Fiat. Ma questi, diciamo, sono quelli più importanti, ma la BS, che c'erano tutte le macchine del mondo, la Fiat l'aveva tirato fuori molti ma molti anni prima, che poi è stata la Mercedes che l'aveva messo in circolazione, la prima vettura al mondo con la BS, una specie di ABS, era un sistema elettromeccanico, però la Fiat l'aveva fatto 20 anni prima di tutti gli altri, ma le vetture a turbina ha fatto una marea di cose, la prima macchina a scocca portante che prima erano tutti a telaio separato l'ha fatta la Lancia, sospensioni indipendenti, cioè la Lancia lo stesso aveva dei brevetti allucinati all'avanguardia, ormai la Fiat, i motori sono numero uno, secondo me non ce n'è per nessuno, infatti le invenzioni ogni tanto ne inventano qualcuno di sistema di iniezione, di coso, anche nei benzina hanno dei brevetti che tutti li copiano, siamo anni avanti su certe cose, però di lì bisogna stare attenti che di lì ti copiano. Ma lo so, hai visto la nuova gazzella di carabinieri? Quella sì che è una macchina, 2000 turbo, 200 cavalli. Lo so, una bella macchina, sì, ok, ma l'hanno venduta anche in altri paesi stranieri, se tu vai la Giulia, però con motori un po' più grossi, dai, da 260 cavalli, la 2002, diciamo, adesso non mi ricordo se c'è 6 cilindri, adesso non mi ricordo, vabbè, comunque la 2002 turbo che c'ha 260 cavalli, è nata anche per paesi in Romania, in altri posti, in paesi arabi, in Dubai, paesi così, questi a Medio Orientale ne hanno venduto diverse di macchine italiane di un certo pregio, però qua noi adesso guardiamo il prezzo, i carabinieri altri si sono salvati, li hanno altri, però stanno uscendo anche con le Skoda, con le Seat, non le hai visti uscendo, e la polizia, ti lì fai un appalto, dice mi serve una macchina con queste caratteristiche, con queste prestazioni, quello che costa di meno non la prendo, c'è stato un periodo anche qualche BMW c'aveva la polizia stradale, diciamo dipende. Sì, me lo ricordo, ma tu stai dicendo la quadrifoglio verde, ce l'hanno anche loro, ce l'hanno qua, ce l'hanno anche in Italia, ce l'hanno, c'è motore Ferrari, dai, tipo là, quello è pompa forte, che altri pensa proprio di contento di cavartene. Quelle spingono le cose amare. Però queste che hanno fatto, beh, certo non si può assomigliare a quella Skoda, Non Skodano, chissà Seat. Io il giorno l'ho vista accelerando, sembrava il mio... Sembrava io scorreggiando, scusando la frase. Cioè, no, la tirata non andava nulla, non andava. Prova a intendere l'Alfa, vedete, se era allegra. Sì, ok. Vai Luca. Sì, io mi sto guardando. Poi ritorna. TikTok. Ma stai guardando? TikTok. Ah, non so, vabbè. Ma la polizia stradale c'ha anche Lamborghini, la Mucelago, non so se l'avete vista, io l'ho vista, davvero l'avevamo portata in Piazza d'Italia e la usano in autostrada quando devono fare trasporto di organi e cose, roba importante, dai. E chi vi già vero motore già? Sì, c'è un cavallo con la macchina, c'è piloti speciali, c'è anche una donna che ha fatto il corso di guida veloce, di lì sono pochi che c'è, ne pare ne hanno tre di quelle macchine lì. E tu vai, stavo guardando i paesi del mondo che hanno le macchine più potenti, più veloci, e a Dubai, la polizia di Dubai ti mette le mani in testa, ma non c'ha solo, c'è anche Ferrari, c'è Lamborghini, Pontiac, come si chiama la Corvette, c'ha macchine di tutti i generi, preparate con le loro colori, però c'ha diverse macchine, e lì vanno in scena quando vendono. E tu dici, lo sai, l'immagine che dà del posto, anziché uscire in panda, tipo mettere i carabinieri nei paesi molte volte con le panda 4x4, perché quando passi con una Corvette o un Lamborghini la gente è diversa, non è da qui. Va bene, nei paesi cos'anni di fa. Io ho già visto in Trentino il 126 dei carabinieri, ti rendi conto? Ancora con il 126? Non adesso, io sto parlando 30 anni fa, quando c'era il 126, 126 dei carabinieri, piccolino, nero, con le scritte carabinieri 112. E vabbè, lì magari è un paesino piccolino, quindi non fa il seguimento, è nuda per la Duvisa. Ah vabbè, li usano i piccoli paesini di montagna dove le strade sono fredde e cose del genere, mica arrivati a Sassari, se no si muove una rete di 126 e due cilindri, il motore della 500 è voluto, cioè. No, quelli gli hanno dato i Jeep Compass, li ho visto, non so cosa è successo mercoledì scorso, sono passato anche a Bosa, c'erano quelli blindati del coso, non ho capito perché ce n'erano un bel di questi qua, degli incollati una lì, quelli che hanno le reti blindate quando ci sono le sommosse, cosa, ne ho visto diversi, belli quelli del coso. O non parliamo di quelli vecchi che hanno i militari nuovo, quello grosso, mamma mia quanto è bello. Quei motori pompano forte. Quelli vecchio grande che sembra il coso, l'hammer americano, l'imitazione italiana, ma è una bestia, altissimo, mi pare che ha 3 metri, larghissimo, enorme, non so se l'hai mai visto, è una bestia, sembra un trattore da canto in mano, quando passa c'è il motore autocilindri, vibra tutto, una cosa spaventosa. Quelle pompano, è fatta apposta, fanno un motore, vale? Sì, ma è blindato, tu lo vedi, grande, alto, enorme, quanto alto ti spaventi? Ho detto 3 metri, sarà 2,80 metri, ma è una cosa, è più grande, ti prende la porta di calcio 2,44 metri, è più alto di una porta di calcio, è tutto blindato, le ruote enormi, gigantesche, è una cosa bellissima, ce ne sono qualcuno qua alla Gonzaga, ogni tanto passano davanti all'officina, li vedo e passano. Ok, facciamo un attimino di bianco che stiamo monopolizzando noi, ancora qualche minuto rimango io e vediamo se vuole entrare qualcuno. Avanti su 10 chi vuole entrare. Nulla. Oggi il QRM è bello, pulito, non ce n'è, basso, 5, raramente così basso, rimane era tutto 9. No, rimane per un po' di casino, gente dalla Sicilia che arrivava forte forte. L'ho acceso ieri un attimino, vi ho sentito, c'era anche un po' di confusione, dato che tanto un po' di macello, dai. Poi già si è calmata la situazione. Sì, sì. Meglio così, dai. Speriamo bene, dai. Capa. Comunque noi, io ho visto un coso, siamo al terzo posto nel paese. Che abbiamo, come si dice, le macchine più belle. Cosa vuol dire al terzo posto? Le macchine macchine più bella della polizia. Sì, in Italia cacchio c'è la bellina, in Germania sono tutte BMW la maggior parte, ma le macchine nostre non scherzano. Qua, secondo me sono migliori. No, la Giulia Nuova ha schicchiato tutte le macchine tedesche, infatti adesso è il punto di riferimento, anche se devo dire il BMW ne ha tolto fuori un'altra, l'M4, però quella non puoi paragonarla, c'ha la stessa potenza della Giulia. Quadrifoglio, però è una macchina, si può dire, la competizione con la Lettone, due soli posti, tutta in carbonio dentro, diciamo sono quelle macchine, una via di mezzo tra la macchina da corsa e la macchina da strada, mentre la Giulia è una macchina che puoi usare tutti i giorni. Sì, vanno bene, vanno, e finalmente la Fiat ha prodotto macchine come si deve. Guarda, io ho sempre preferito macchine Fiat, perché c'è secondo cosa con pareggi di ne bassa la gana, di ne bassa. Guarda, io dico, a livello di utilitaria siamo sempre il numero uno, gli altri si avvicinano ma non hanno la affidabilità, la facilità di riparazione, la facilità di reparazione.